Buongiorno a tutti, questo è Il Cammino e io sono Gigi D'Agostino e quindi il cammino è il mio, però è anche il vostro. Oggi cammineremo ovunque. Percorreremo sentieri molto cupi e ritmati e altri molto più melodici, ma altrettanto ritmati. Cominciamo ad andare. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. M2O, musica allo stato puro. Il 2 novembre 1755 nasce Maria Antonietta, regina di Francia. D'Agostino, se poti in forma durante il cammino. Per maggiori informazioni sulle sue serate e sui suoi brani, www.gigidagostino.com. Scusate, qualcuno sa cosa vuol dire prisma? Com? Intanto che cercate, vi leggo un aforisma. C'è sempre qualcuno che cerca un amico, ma nessuno si preoccupa di esserlo. Anonimo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino. Qua c'è il cammino di Gigi Gattino. Il gattino. M2O. Il 2 novembre 1906 nasce Luchino il Cammino. Oh, no, volevo dirlo. Il 2 novembre 1906 nasce Luchino Visconti, regista italiano. Like a river that goes to the sea, this is the way that it has to be. Un attimo di attenzione. Dobbiamo cambiare canzone. È il cammino del Gigi D'Agostino. L'appuntamento in discoteca con me, che sono Gigi D'Agostino, quello lì. Mi piace. E con la musica del Cammino e tutta quella musica lì che suono io. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello in Austria. Sabato 4 novembre, discoteca Nackschied Donauplex, Vienna, Austria. Thank you.

Non vedo più niente. Roba del screensaver. La situazione si fa bella, è suonata la campanella. Io gioco. Con la musica. Mi diverto. Con la musica. Gioco, gioco. Con la musica. Gioco, gioco. Con la musica. Gioco. Eternamente. Il cammino di Gigi D'Agostino. M2O. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. D'Agostino, reparto pelle d'oca.

Vienna, Austria. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Nascere in un pollaio quando si ha poi la fortuna di diventare cigno. È forte questa. Hans Christian Andersen. E sono tre amici.